Alla canonica di Köckense seguirono giorni di grave disagio. Herr Dremmel si ritirò in una torre di silenzio, sebbene non facesse alcuna allusione alle deprecabili traversie in atto. Ai pasti non era che una sagoma trincerata dietro un giornale, in certe occasioni poi non appariva del tutto. Decise che non avrebbe sprecato altre energie arrabbiandosi. Non appena ne avesse avuta l'opportunità, si sarebbe fatto condurre fino a Moek per far visita al dottore e, dopo avergli spiegato il bizzarro effetto che Zoppot aveva avuto sulla moglie, gli avrebbe chiesto di prescrivere una cura che capovolgesse i risultati della cura precedente. A suo modo di vedere, toccava a Ingeborg compiere il primo passo per chiedergli perdono. Le avrebbe concesso ancora qualche giorno e, se ciò non fosse avvenuto, sperava che un consulto dal medico l'avrebbe aiutata a capire quale strada intraprendere, se quella improntata alla severità o se, mettendo da parte la sua virilità, quella lastricata di lusinghe e blandizie. Tutto sommato aveva un animo troppo buono per ricorrere alle scenate senza l'autorizzazione del medico. Forse sua moglie aveva solo bisogno di un piccolo correttivo agli effetti del soggiorno a Zoppot. La sua mente aperta a ogni possibilità, infatti, non negava a priori la possibile esistenza di cose quali un eccesso di salubrità. Essendosi risolto in tal senso, si ritrovò più calmo e incline a riprendere il lavoro con animo maggiormente sereno, convinto che dopo pochi giorni, grazie all'aiuto del medico, gli sarebbe apparso chiaro il rimedio da applicare. In quel periodo Ingeborg non ebbe nulla di cui lamentarsi, se non del fatto che lui non le rivolgeva la parola. Diverse volte tentò di riaprire il discorso chiuso così bruscamente, ma di fronte al suo silenzio assoluto non riuscì una sola volta ad andare oltre il consueto esordio. Ma Robert! Durante l'escursione nella foresta insieme ai bambini, mentre loro non chiacchieravano allegramente e non giocavano a nulla, Ingeborg considerò ogni possibilità per indurla a prendere parte a una conversazione che si potesse definire ragionevole. Sapeva che la sua prima apparizione nel ruolo di madre e di missionaria era stata pessima. Ma com'era difficile recitare un copione a sangue freddo quando il proprio cuore trabocca di disperata passione. E poi vi erano le lacrime. Una donna piangeva sempre, fattore di grande svantaggio. Era prassi regolare che una moglie si sciogliesse in lacrime ancor prima di aver raggiunto il primo punto e virgola in qualsiasi discorso di importanza vitale con il proprio marito, pensò Ingeborg indispettita. E Robert, quando lei si abbandonava ai singhiozzi, si mostrava calmo e paziente in modo ancora più esasperante del solito. Sedeva come un voluminoso dio, ieratico, immune da ogni umana angustia, in attesa del suo ritorno alla ragione. È vero che anche i suoi occhi lacrimavano talvolta, ma solo in particolari occasioni, quali la vigilia di Natale e l'arrivo di un figlio maschio, motivi che potevano essere annoverati nella categoria degli eventi gioiosi o tutt'al più toccanti. Mai per i grandi temi della vita, per le questioni esistenziali da cui dipendeva la terrena felicità. Come si sarebbe presentata più semplice la vita, considerò, se i mariti e le mogli avessero condiviso gli stessi gusti in fatto di lacrime. 4 giorni dopo il suo ritorno a casa, Ingeborg gli chiese di perdonarla. Accadde al termine della cena, dopo che lui ebbe tolto il libro dalla pagnotta utilizzata come leggio mentre si alzava per lasciare la stanza. D'impeto, con tutta la rapidità della disperazione, gli si avvicinò e, afferrandolo per entrambe le mani, gli disse: «Perdonami». Egli posò su di lei uno sguardo che lasciava trasparire un barlume di speranza. Forse, dopo tutto, era necessario andare fino a Moek. «Ti prego, Robert», lo implorò, «sai bene quanto ti amo e quanto sto male per averti ferito. Ritorniamo ad essere amici, ti va?» «Amici», ribatté Herr Dremmel, retrocedendo subito di un passo. È tutto quello che hai da dirmi? Oh, ti prego, ritorniamo amici, non sopporto tutto ciò. Ingeborg, l'apostrofò con quella severità che ha origine dal disappunto, mentre sottraeva le maniche dalla presa di lei e si avviava verso la porta. Possibile che tu non abbia ancora compreso che un marito e una moglie, che si possano definire davvero tali, non potranno mai essere amici? Oh, che cosa terribile! Esclamò Ingeborg, lasciando cadere le braccia lungo i fianchi e fissandolo sconsolata mentre si allontanava. Verso la fine della settimana, quando le sue lucubrazioni solitarie ancora mancavano di offrire un risultato che le aiutasse a rimuovere l'ombra che tanto pesantemente oscurava la sua esistenza, ebbe l'idea di recarsi a Moek dal dottore per chiedere consiglio. Con lei si era sempre dimostrato buono, premuroso e comprensivo. Si sarebbe recata da lui animata da uno spirito simile a quello con il quale si entra in un confessionale piuttosto che in uno studio medico e, con una mano sulla coscienza, gli avrebbe chiesto consiglio per la salvezza della sua anima. La situazione a casa le risultava ormai del tutto insopportabile. Se il medico le avesse detto che era suo preciso dovere continuare a generare figli e che la morte degli ultimi due non era stato altro che una sventurata fatalità, allora avrebbe proseguito in quella sua miserevole carriera di madre. Si trattava di una carriera sciagurata, di un percorso terribile, mutilante, anche se sempre meno tremendo del vivere nel dubbio di essere una persona malvagia, e di scoprire che Robert aveva tutte le ragioni dalla sua parte. Non per niente era figlia di un vescovo e come tale aveva goduto per 22 anni del privilegio di vivere in una casa cristiana. Inoltre, sapeva fin troppo bene che l'opinione pubblica di Kökense e Glömbäck si sarebbe schierata contro di lei e si sentiva troppo debole per affrontare da sola avversari tanto determinati e potenti. Dopotutto, non era mai stata capace di resistere a forme di disapprovazione protratte nel tempo, così come non era mai stata in grado di sopportare il pensiero dell'infelicità di chi la circondava. Prima che quella settimana fosse giunta al termine, Ingeborg si sentì talmente abbattuta e assillata dai dubbi che decise di riporre ogni sua speranza in Möck e a tenersi a quanto il dottore le avrebbe prescritto. Fu così che si risolse a percorrere le 5 miglia che distavano dal gabinetto medico nello stesso giorno in cui anche Herr Dremmel aveva deciso di andarci. A metà mattina, infatti, si era diretto con una scorta di panini per sé e per il suo cocchiere in direzione dei campi sperimentali, dicendo alla moglie che non sarebbe tornato prima di cena. Ingeborg, cogliendo al volo l'opportunità che le si offriva, si mise in cammino verso Moek, dopo poco le 12, armata a sua volta di panini. Sapeva che l'orario di ricevimento del dottore era dalle 2 alle 3, pertanto se fosse riuscita ad arrivare puntuale per le 2 avrebbe potuto parlargli, ascoltare la sentenza che avrebbe plasmato il suo destino ad essere di nuovo a casa per le 4. Camminò lungo il ciglio dei campi di segale appena mietuti, mangiando i suoi panini e rifiutandosi almeno per quell'ora e mezza di pensare alle difficoltà della vita. In quel periodo la sua mente affaticata ne aveva avute più che a sufficienza. Avrebbe accantonato l'analisi dei numerosi problemi che l'assillavano almeno per il tempo necessario per correre quella distanza. Era uno smagliante mezzogiorno d'agosto e il mondo sembrava offrire ogni ragione di felicità. Alcuni cacciatori, forse amici dei Glömbäck, stavano sparando alle pernici tra le stoppie. I campi di lupini, in quel momento al loro massimo splendore, l'accompagnarono per tutto il tragitto con il loro soave effluvio, così simile al fior d'arancio. Per circa 1 miglio dovette guardare un impervio sentiero sabbioso e per le rimanenti 4 percorrere la bianca dura strada fiancheggiata da frassini rosseggianti che conduceva Moek. Camminando in quel tepore chiaro, terso, carico di sfumature e di fragranti profumi, il suo viso andò man mano assumendo un bel colorito acceso, tanto che nel momento in cui giunse dal dottore, per quanto a terra fosse il suo morale, l'aspetto era talmente rubicondo e in salute che la domestica l'indirizzò non verso la sala d'attesa, ma verso l'altra estremità del corridoio, convinta che il motivo della sua visita non potesse essere un consulto medico, bensì un saluto, una chiacchierata con la moglie del dottore. Entrò nella sala d'attesa, un ambiente tetro, provocando lo stesso effetto di una lama di luce che fende un banco di nebbia. E lì, seduto presso il tavolo, intento a sfogliare vecchie riviste illustrate consunte per l'uso, trovò Herr Dremmel. Per un attimo rimasero a fissarsi a vicenda. Erano gli unici presenti. Attraverso la porta a soffietto si udiva il mormorio di qualcuno a consulto nella stanza attigua. Solitamente Moek non era un paese di malati e 9 volte su 10, dalle 2 alle 3, il dottore leggeva il giornale indisturbato. Ma essendo quella la decima volta, nonostante la campagna avesse appena battuto le 2, il medico stava già visitando un paziente. Herr Dremmel e Ingeborg si fissarono per un attimo senza aprire bocca. Poi egli, improvvisamente adirato per il fatto che le fosse venuta Moek senza chiedergli il permesso, disse: «Non mi hai detto che saresti venuta qui?» «No», disse Ingeborg. «Perché sei venuta?» Lei, che nel desiderio inconscio di dare il meno possibile all'occhio, si era seduta sul bordo di una sedia posta in un angolo, si teneva aggrappata al manico del suo ombrello. Incontrare Robert proprio lì era stata la cosa più malaugurata che potesse accaderle. «Perché? Ho pensato di farlo», mormorò febbrebbettì. «Non mi sembri affatto malata e di certo non lo eri questa mattina. È un problema psicologico», fu la spiegazione che offrì al marito buttandosi sulla prima cosa che passò per la sua mente indisciplinata. «Psico? E tu, Robert? Sei malato?» chiese colto da un'ansia improvvisa. «Mia cara moglie, questo è solo affar mio», rispose Herr Dremmel, perplesso e contrariato al tempo stesso della sua presenza. «Oh», mormorò Ingeborg. Era la prima volta che si sentiva definire una cara moglie e capì all'istante che egli le ingiungeva di starsene rigorosamente al proprio posto. Lui prese a scorrere velocemente le pagine del Fliegende Blätter. Lei si aggrappò ancora più spasmodicamente a ciò che sembrava essere il suo unico amico, l'ombrello. Sei venuta a piedi? Chiese dopo un po', fulminandola con quella domanda come se fosse un proiettile. Sì, ah sì, rispose Ingeborg, docile e sollecita al tempo stesso. Quale poteva mai essere il motivo della sua visita? Si chiese Herr Dremmel, sfogliando le pagine ancora più vigorosamente. L'idea che la moglie potesse trovarsi nella necessità di consultare il medico era ridicola. A giudicare dal suo aspetto, con le guance arrossate, sembrava una prospera ragazza di 16-18 anni al massimo. Perché era venuto? Si domandava Ingeborg, desiderosa che la vita le risparmiasse certe imbarazzanti coincidenze e tenendo gli occhi rigorosamente abbassati sul tappeto. Poi una paura improvvisa le attanagliò il cuore. E se lui fosse stato seriamente malato? Se fosse caduto vittima di uno di quei gravi, impietosi mali oscuri che sembravano falciare gli uomini con tanta facilità e rendere la terra un luogo zeppo di vedove? Aveva notato che per ogni vedovo di Kökensee del distretto circostante vi erano 10 vedove. Le donne sembravano trascorrere la vita soffrendo, provate costantemente da un duro colpo dopo l'altro, ma alla fine restavano vive. Gli uomini, invece, che lavoravano all'aperto per quasi tutto l'anno, morivano dopo un singolo colpo. Forse agli uomini manca la pratica nell'accusare batoste, si disse. E mentre formulava quella tesi, tentava di scrutare Robert di sottecchi, lottando contro il desiderio di ginocchiarsi ai suoi piedi e implorando di informarla sui suoi problemi di salute. Stava quasi per farlo, seguendo l'impulso del momento, se la porta non si fosse aperta lasciando apparire il dottore che salutò con un inchino. Darf ich bitte? Chiese il medico Herr Dremmel, ancora ignaro della presenza di Ingeborg rimasta celata dietro l'anta della porta. Ah, siete voi, Herr Pastor, aggiunse in tono meno ufficiale non appena l'ebbe riconosciuto, avanzando verso di lui con la mano tesa. Spero, amico mio, che non ci sia nulla di serio. Herr Dremmel non rispose, ma afferrando il cappello, con un gesto eloquente indicò il gabinetto di consultazione, esplicitando il suo desiderio di parlargli in privato. In quell'istante il medico, girandosi per seguirlo, vide Ingeborg in un angolo, dietro la porta. Ah, Frau Pastor! Esclamò, inchinandosi di nuovo e avanzando pure verso di lei con una mano tesa. Chi dei due? Aggiunse guardando da uno all'altra il paziente. Ma più che l'atteggiamento riservato della moglie, era la schiena di Herr Dremmel che andava scomparendo con determinazione nella stanza accanto, a suggerire un bisogno acuto di assistenza. Mi direte la verità su di lui, vero dottore? Non mi nasconderete nulla? Bisbigliò Ingeborg in tono ansioso. Il medico assunse un'espressione molto seria. È davvero molto grave? Le chiese. Poi, affrettandosi a seguire Herr Dremmel, chiuse la porta. Ingeborg rimase seduta, aspettando per un intervallo di tempo che le parve infinito. Si udiva un sommesso mormorio e spesso erano entrambi a mormorare, il che la lasciava piuttosto perplessa. In alcuni momenti poi le voci diventavano distinte, dimenticate che sono un pastore cristiano. Furono le parole che sentì Robert rivolgere al dottore. Poi si acquetavano di nuovo, ma stranamente non cessavano mai del tutto, come invece si sarebbe aspettata se Robert avesse dovuto mostrare la lingua o attendere che porzioni del suo corpo venissero opportunamente visitate. Ingeborg restava lì, irrigidita sulla sedia, divorata dall'apprensione e dall'ansia, dimentica di tutti i suoi problemi, in preda al terrore che lui avesse qualcosa di grave. Quando infine la porta si aprì ed entrambi gli uomini ne emersero, si alzò di impulso chiedendo: Ebbene? Sul viso di Herr Dremmel era dipinta un'espressione molto solenne, più infinitamente solenne di quanto non gli avesse mai visto, come se fosse già sul punto di coronare la sua vita di uomo, apportandovi il tocco finale, l'ultimo contributo all'umanità, una vedova e degli orfani. Il viso del medico era concentrato nello sforzo di non mostrare alcuna emozione. Ebbene, ripeté Ingeborg fortemente allarmata. Anche Frau Pastor desidera consultarmi? Chiese il medico. Sì, ma ora non è più importante. Robert, piuttosto? Herr Dremmel, mettendosi il cappello con grande determinazione, procedette verso la porta senza salutare il dottore. Ti aspetterò fuori per condurti a casa, Ingeborg, disse senza guardarsi attorno. È molto malato? Chiese lei, girandosi verso il medico. No. No? No, ripeté il medico, enfatizzando quel suono. Ma. E anche voi avete un aspetto splendido. Vi prego di mantenervi tale. A quanto pare non avete bisogno che vi dica altro. Ora vi accompagno subito alla carrozza. Ma, ripeté Ingeborg, che si vide offrire un braccio e condurre cerimoniosamente verso Robert. Prendete il vostro ricostituente. Passate molto tempo al sole e non alterate nulla del vostro attuale stile di vita, le aggiunse il medico. Ma Robert, Herr Pastor, che gode di eccellente salute, si getterà con rinnovato vigore nel suo lavoro. Ma allora perché? E Frau Pastor dovrà compiere il suo dovere. Sì. Ella si arrestò e lo guardò in viso. Sì, lo farò, ma qual è il mio dovere? Mia cara Frau Pastor, ne è rimasto solo uno. Siete libera da tutti gli altri. Ora il vostro solo dovere è mantenervi in salute fisica e mentale, dare ai vostri figli una madre capace e a vostro marito una compagna in possesso di quella serenità, quell'amabilità che possono scaturire solo da un fisico in buona salute. Ma Robert è venuto a consultarmi riguardo a voi. Non vi permetterò di trasformare proprio lui, che merita così tanto dalla vita, in un essere infelice, cioè in un vedovo. Oh, quindi posso davvero? Egli aprì la porta d'ingresso per farla uscire. Sì, davvero. E dopo averle dato la mano per aiutarla a montare in carrozza accanto a Herr Dremmel, li congedò indirizzando loro amichevoli cenni di commiato. Ingeborg, ora consapevole che la vera ragione dell'eccezionale serietà di Robert era la paura di perderla e non quella di lasciarla sola, si sentì profondamente commossa e desiderosa di esprimergli tutta la sua gratitudine. Fece scivolare la mano sotto il braccio del marito e trascorse l'intero tragitto da Moek a Kökensee, rassicurandolo coscienziosamente, annunciandogli in toni vivaci che dopo tutto non sarebbe diventato vedovo. Egli subì quell'orazione di conforto nel più totale silenzio. Capitolo 24. Essendo un uomo saggio, Herr Dremmel non perse tempo ad agitarsi o a rimpiangere l'inevitabile, ma avendo ascoltato le conclusioni del dottore, conclusioni espresse in un'unica risoluta parola, Ausgeschlossen, ripetuta infinite volte come una gragnuola di colpi in pieno viso, escluse la figura di Ingeborg quale moglie dalla propria vita e si esercitò a contemplarla in veste di sorella. Dopo un breve periodo di scontrosità, dovuto al timore che il periodo di addestramento all'astinenza si sarebbe potuto rivelare eccessivamente gravoso, interferendo sui risultati del suo lavoro, egli divenne nuovamente sereno, dato che con sua gran sorpresa trovò la cosa estremamente facile. Il senso di oltraggio, derivato dall'inadempienza della moglie e il dolore dovuto al sospetto che ella intendesse deliberatamente ferirlo, andarono scomparendo. Si persuase che quella faccenda non avesse nulla a che fare con la volontà personale. Pur non potendo esimersi dal pensare quanto fosse deprecabile l'aver sposato una donna tanto cagionevole, si consolò dicendosi che, se non altro, date le sue capacità intellettuali, sarebbe stato molto meno dipendente dalle gioie domestiche della maggior parte dei rappresentanti della professione ecclesiale, una categoria che di solito faceva pesante affidamento su di esse. Egli fu sorpreso a scoprire quanto fosse facile, una volta riconosciuta l'inevitabilità di tale privazione, riassestare il loro rapporto su un nuovo asse e giungere presto a un confortevole oblio. Ingeborg parve staccarsi da lui come una foglia in autunno, un elemento leggero e secondario, alla cui separazione dalla grande forza primaria, il suo discostarsi e il suo volteggiare in aria furono eventi pressoché inavvertibili. Dotò la sua mente di compartimenti stagni a prova di moglie. Lui, che aveva temuto che quella faccenda potesse trasformarsi in un'ossessione, cessò persino di notare quanto lei fosse bella, amorevole e dolce. Proprio come all'inizio, quando l'aveva appena conosciuta, si era compiaciuto con se stesso per la capacità di innamorarsi con tanto ardore, ora si rallegrava della sua capacità di saper uscire così facilmente da quella condizione. Evidentemente possedeva una grande padronanza di sé. Le passioni erano come dei servitori, si disse, che dovevano giungere al cospetto del padrone solo se richiamati con un campanello. Quindi doveva semplicemente astenersi dal suonarlo. Osservò con soddisfazione come durante questa crisi emotiva, supponeva fosse possibile definirla tale, L'addestramento che aveva impartito alla sua mente e tutta l'attenzione che vi aveva dispensato fin dalla gioventù stessero producendo non solo frutti abbondanti, ma anche particolarmente dolci e maturi. Al momento della prematura scomparsa di sua moglie, Ingeborg si trasformò ai suoi occhi con gratificante rapidità in una sorella nubile che aveva rilevato la conduzione della casa. E quando la sera le si accostava per augurarle la buonanotte in toni gentili, si ritrovava con naturalezza a baciarla sulla fronte. Non le comunicò mai che per lui era diventata una sorella, ma si limitò a riorganizzare la propria esistenza secondo quella nuova linea. Inoltre, così come il dottore aveva previsto, egli si gettò nel lavoro con rinnovato zelo e quanto prima si sentì nuovamente pervadere da quella beata calma, dalla serenità e dall'ineguagliabile armonia che colmano lo spirito di chi opera con diligenza per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ingeborg, invece, che in gioventù aveva trascurato di addestrare il proprio raziocinio e la cui mente era di conseguenza parecchio indisciplinata, trascorse le prime settimane della nuova condizione di fratellanza con uno sfarfallione senza meta. Acchiappava un capo dell'intricata matassa della sua vita che sembrava fuoriuscire da un punto del groviglio e provava a tirarlo. Poi ci riprovava con un capo che spuntava dall'altra parte. Indi li osservava con aria interrogativa per perdere subito la presa. Improvvisamente si ritrovava investita da tanta libertà da non sapere come incominciare a godersela. I capi che la matassa della vita offriva erano così numerosi e costituivano una scelta così ardua che invece di afferrarne uno con determinazione restava indecisa sbattendo le palpebre con costerno. Finalmente i giorni le si paravano davanti vuoti, tutti per sé. Finalmente poteva dirsi con immenso gaudio: il prossimo mese mi dedicherò a quella cosa, sicura di poter disporre del proprio tempo. Certa di potersi organizzare secondo la propria volontà, oramai sgravata da quel basto di piombo che ogni giorno più pesante la teneva zavorrata al divano. E non solo poteva programmare fiduciosa le attività del mese successivo, ma anche, e questa piccola cosa, così come molte altre, le appariva ora particolarmente nuova e deliziosa, gli abiti che avrebbe indossato. Tutti quegli orrendi vestitoni nei quali aveva arrancato durante i 7 anni del loro matrimonio. Indumenti scuri, la cui unica triste funzione era di nascondere la sua deformità. Vennero donati a Else, la sua prima domestica, che con estrema frugalità li convertì in brache di vario modello per il marito, manufatti che lo lasciavano perennemente amareggiato. In ultimo, da armadi dimenticati da tempo, estrasse di nuovo quei capi della linea ben modellata e attillata che costituivano il suo cospicuo ma mai indossato corredo. Abiti corti, lavabili e pratici, che una volta addosso le restituirono non solo il giusto amor proprio, ma anche il rispetto di sé quale essere umano dotato di dignità. All'inizio i soggiorni erano densi di sensazioni, nonché di una massiccia presa di coscienza delle stesse. A differenza di quanto avveniva durante la sua gioventù, quando tali emozioni venivano date per scontate, ora invece esse le apparivano doni straordinariamente preziosi. Come un calice colmo fino all'orlo, traboccava di gratitudine per tutti gli aspetti fondamentali della vita: il sonno, la fame, la capacità di muoversi liberamente, l'assenza di paure e di dolore. La salute, rifluendo lentamente, le scorreva nel sangue come un vino raffinato di pregevole annata. Aveva 30 anni e non si era mai sentita così giovane. Che meraviglia svegliarsi al mattino e pregustare un'altra giornata di benessere. Che delizia sentirsi viva in quel mondo di incantevole bellezza e di infinite opportunità. Il suo cuore straripava di quel facile trasporto verso la gioia tipici del convalescente. Soltanto il sedersi sulla soglia al mattino e lasciarsi riscaldare dai raggi del sole mentre assimilava tutta la bellezza del creato la colmava di felicità. Robert e Letty Ditti non furono mai baciati tanto, a Rosa e alla cuoca non furono mai poste con tanta assiduità domande di interessamento sulle loro madri malate. Kökense non fu mai così vicina a beneficiare di una serie di caritatevoli iniziative. Persino il gatto venne accarezzato con rinnovata benevolenza e il cane da guardia, un tempo sospettato di scontrosità, fu amato con rinnovato vigore. E ogni volta che attraversava il cortile, Ingeborg non riusciva a trattenersi dal lanciare al maiale di casa un'occhiata colma di radiosa universale amabilità. Benché desiderasse appassionatamente rendere tutti felici in cambio della bontà di Robert nei suoi confronti, quale ringraziamento per la gentilezza con cui pensava lui stesso accettando, dopo quella prima sfuriata, la sua decisione, dandole a intendere di non trovarla riprovevole, era stata ancorata troppo a lungo a un modello di comportamento ben preciso, per non sentirsi un po' incerta ora che si ritrovava libera. Non riuscì a gettarsi subito nel vortice della vita, nella sua totale pienezza, piuttosto ne indugiava sul ciglio, ora tastandone i contorni, ora cercando dubbiosa il punto d'appoggio che fornisse la presa più sicura. Contrariamente a ogni aspettativa, il lasciarsi andare le risultava difficile. Si era forse fossilizzata rimanendo lontana dalla vera vita troppo a lungo. Mentre le prime settimane cedevano il passo a quelle successive, la prima ondata di pura gioia per il ritrovato benessere veniva attutita dalla ripetizione, la perplessità prese a crescere in lei. Ogni cosa la sconcertava: se stessa, Robert, i bambini, la servitù. Ma Robert più di tutto il resto. Prima, quando lei era felice e spensierata, una creatura allegra e canterina, egli l'aveva amata. Sapeva che lui l'aveva amata. Le bastava solo essere di umore allegro, di quell'umore che la spingeva a sedersi sulle sue ginocchia con disinvoltura, incurante se a lui facesse piacere o meno, insistendo affinché l'ascoltasse mentre gli spiegava, tra il serio e il faceto, talvolta in toni ampollosi, talaltra turbati oppure ancora verbosi. Gli aspetti dell'umana esistenza che più l'affascinavano, affinché egli emergesse dalle sue meditazioni per ridere con lei e vezzeggiarla. Ora nulla più catturava la sua attenzione. Sembrava essere diventato insensibile a ogni argomento e refrattario a ogni tentativo di richiamo, appartato in un rifugio inaccessibile, dislocato in territorio alieno, impossibile da raggiungere. Mai si era sentita così distante da lui, eppure era evidente che lui non nutriva alcun rancore nei suoi confronti, anzi, era sempre squisitamente gentile. Ingeborg non poteva di certo immaginare che quella persistente amabilità, priva di ogni entusiasmo, non era altro che la sua naturale espressione di fraterna considerazione. Eppure mi ama, si disse, del tutto ignara delle sue vedute sull'esiguità dello spazio occupato sulla Terra da persone di nessun conto quali le sorelle. Sì, mi ama. Se lo disse parecchie volte al giorno, abbracciando se stessa man mano che le settimane passavano, nello stesso modo in cui un cocchiere seduto a cassetta e sentendosi gelare, non avendo altro da abbracciare, abbraccia il proprio petto di tanto in tanto per riattivare la circolazione. E se lo ripeteva con convinzione, salendo le scale per avviarsi al piano superiore dopo il bacio della buonanotte. Nonostante quei tentativi di rassicurazione, in breve si ritrovò a esitare prima di parlargli e anche solo di sfiorarlo, chiedendosi se la cosa gli avrebbe fatto piacere. Cercando di scuotersi di dosso ogni timidezza, una volta o due, con ardimento gli arruffò i capelli. Ma poiché la sua testa, china sulla cena o sul libro, sembrava non accorgersi di quel gesto, ella si ritrovò incapace di proseguire. Eppure mi ama, si diceva. Non passò molto tempo prima di accorgersi che oramai non lo divertiva più e nel preciso istante in cui compiva quella scoperta cessò di essere divertente. La sua gaiezza, proprio come la luce di una candela, andò gradualmente estinguendosi. Eppure mi ama, continuava ad asserire con caparbietà. Ora lui, invariabilmente, la chiamava Ingeborg, non più moglie o piccola. Presto divenne impensabile che un tempo fosse mai stata il suo tesoro, la sua lumachina o la sua pecorella. Il suo nome, comunque, veniva pronunciato in modo gentile, senza la traccia di rimprovero che tempo addietro avrebbe implicato il suo uso. Eppur mi ama, si disse ancora una volta. Perplessa si arrovellava per scovare modi per compiacerlo, affaccendandosi affinché la casa fosse sempre ordinata e accogliente. Eseguendo ogni singola incombenza con una coscienziosità e un accanimento che alle 11 del mattino avevano già esaurito la scorta della giornata. Herr Dremmel, comunque, non era di certo un uomo abbordabile con esche, quali una casa ben rassettata e del buon cibo, dato che non avendone mai notata l'assenza in passato, non poteva notarne ora la presenza. In breve, Ingeborg dovette prendere atto che tutti quegli accorgimenti in materia di conduzione domestica non contribuivano minimamente ad accrescere la felicità del marito. Che cosa poteva fare allora? In quale direzione doveva impegnarsi per rendere la vita di lui più gioiosa e serena possibile?